anche perché è un'isolana. Abita a Stromboli la maggior parte dell'anno, non è che fa finta, ci sta proprio. Ha scritto: sono venuta qui a stare zitta, perché questa scrittrice è socievole e solitaria e mi è molto cara. E mi fa ridere, non solo perché è spiritosa, ma rallegra. Nella vita è coraggiosa come nella scrittura. Lei sta di casa nel dolore e sa ridere. È molto strana, strana nel senso che non ti ricorda nessun altro. È l'ultima dama, ma una dama understatement alla Virginia Woolf, con le scarpe rotte all'occorrenza, ed è un ragazzo. Quando l'anno scorso ho letto il suo libro Piccoli Uomini, ritratti di maschi dove lei tratta loro come loro trattano noi, esaminando senza pietà anche il fisico, ma con finezza, ecco, per un periodo ho visto tutti quelli che incontravo che erano citati nel libro, li vedevo come disegnati dalla Ravera, e quando entri negli occhi di uno scrittore vuol dire che sei suo, vuol dire che ti ha catturato. Qui Capitaneria di Porto, come richiesto la scrittrice Lidia Ravera è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Pronto, Lidia? Eccomi. Oh, ciao. Com'è una mattinata a Stromboli? Calda, col mare immobile, color vetro, che mi circonda, e comunque a me dà una bella sensazione di lontananza e libertà. Per questo sto qua, per questi due preziosi doni della sorte. Senti, Lidia, ti ho chiamato anche per sapere cos'è stato per te il gioco di Ventotene. Come ti sentivi a fare? Alcuni ti chiamavano preside, altri capa, ti hanno dato tutti i titoli oltraggiosi che si danno a qualcuno che guida un gregge. Come ti sentivi? Molto dolcemente, affettuosamente sfottuta, ma ho tenuto duro. La cosa che più è stata patita dagli scrittori, che per il resto si sono divertiti come dei topi nel formaggio, la cosa che hanno patito di più sono state le serate a tema, ma io lo sapevo che quella lì era una formidabile cattiveria, perché la cena è la cena, si mangia, si beve, si cazzeggia. Io invece avevo questo sogno della conversazione, che a cena tra persone intelligenti non necessariamente bisogna non parlare di nulla, come capita, si può anche parlare di qualcosa. E allora ho proposto tre temi e li ho introdotti, ed erano dei temi scherzosi ma difficilini, e ho costretto questi scrittori di varie generazioni, ma tutti compattamente ubriachi, a esprimersi su questi temini, che non erano poi così, insomma, ce n'era uno sull'ispirazione, attenderla con la pazienza del pescatore o costruirla artificialmente. Sono poi temi sulle quali la storia della letteratura mondiale si è interrogata con ferocia. Io pretendevo così di organizzarli tra le fragole, il gelato e la torta. Si sono un po' ribellati, appunto, chiamandomi preside, però ha funzionato anche quello. Quello che devo dire è stato il momento più difficile. Cioè, alla fine, sospiro di sollievo o... Sollievo, immediatamente dopo nostalgia, che è poi il tipo di impasto che ci rovina la vita in genere. Sollievo perché io in genere sono scrittore ospitato, faccio la mia cosa e me ne vado, invece avere la responsabilità di armonizzare gli altri, di farli esprimere al loro meglio, era qualcosa di molto nuovo anche per me. Da attore e regista. Un po' di sollievo c'è stato alla fine della fatica, anche perché è andato tutto benissimo, nessun narcisismo eccedente, tutti simpatici, tutti onesti, tutti avete scritto nei tre giorni sull'isola e nell'isola senza portare il piattino già cucinato da casa, quindi con grande solenne onestà da studenti. Poi che cosa sono gli scrittori se non degli studenti eterni? Io ho coinvolto generazioni diverse, ma erano tutti ragazzini, eravamo tutti ragazzini. Senti, in questo libro a Stromboli tu scrivi a proposito della decisione di andare a scrivere nell'isola: mi occupava la furia di trovare una degna cornice alla mia impresa. E poi ancora hai scritto: sono andata a vivere nell'isola come il piccolo principe nel suo asteroide. L'impresa a cui mi accingo è un'impresa sublime e terribile, a cui prima o poi si accingono tutti, e che è invecchiare. Invecchiare con profondità, con intelligenza, con grazia e con allegria e con la capacità di rinnovarsi, e a contatto del tempo ciclico della natura, che è meno crudele del tempo anagrafico, perché la primavera torna tutti gli anni. Allora io qui mi sono confinata tra le quattro dirompenti forze della natura: acqua, fuoco, terra e aria, e provo a imparare dalla natura ad avere una primavera all'anno. Non è facile, è una bella impresa, appunto, però l'isola la facilita. Tu hai scritto: mi ero, sempre a Stromboli, mi ero insediata nella giovinezza come la regina di un paese in via di sviluppo. Vivevo in perpetua apprensione, temevo d'essere deposta. Si passa tutta la vita ad aver paura che arrivi nei 50 anni, i 60, i 70, gli 80. Comincia ad aver paura a 20. Ma si comincia ad aver paura di morire subito. Cioè, la condizione umana non è mica uno scherzetto da ridere. Infatti, allora qui la guardo in faccia. Dico: cara condizione umana, parliamoci. E devo dire, la lontananza aiuta. L'isola dà questa illusione della lontananza, per questo ho scelto Ventotene. Per questo gioco letterario e per questo ho scelto Stromboli per viverci, perché c'è questa illusione, ti senti finalmente lontana, da che cosa esattamente non lo sai, ma non ha importanza, dalla terraferma, dalla città, dalla realtà, ti senti lontana e basta. E la lontananza si porta dietro una percezione imprevista, proprio il senso di un antico privilegio, perché ormai la lontananza non esiste più, viviamo circondati da suffisso tele che ci avvicina tutto, telefono, telematica, abbiamo sempre tutto vicino. E questo è il punto, bisognerebbe frantumare il computer. E il distacco è interno, tutto viene messo nella sua giusta dimensione, niente cede la sua dimensione di fronte all'enorme fatica che stai facendo a confrontarti appunto col tempo, nella sua cadenza lenta ma implacabile. Chi ci ascolta avrà capito che il tuo libro non è una guida turistica. Piccola com'è, disabitata per tutto l'inverno e l'autunno, periferica e senza altre risorse che un turismo di gente di passo, Stromboli ha stimolato una quantità sproporzionata di prosa, romanzi, libretti, guide, reportage, saggi, meditazioni, raccolte di fotografie, di pensieri, di ricordi. Nessuno ha saputo spiegarmi quale sia esattamente la malia o la magia, ma il dato è incontrovertibile: l'isola scatena la creatività. Si impone ai terminali della percezione, impone parole e colori, inquadrature, ritratti e cornici. Mette in moto quell'istinto, spesso sepolto da altre priorità, che ci spingerebbe naturalmente a dare forma comunicabile all'esperienza del guardare, per goderne insieme ad altri o per approfondire e rendere durevole il godimento solitario della contemplazione. Non si può far altro che scrivere o dipingere o fotografare di fronte alla curva che il mare ha scavato nella roccia, alla spiaggia vista dall'alto, salendo verso l'osservatorio, fra il fragile ingombro delle canne e i bassi cuscini gialli di grasse piante carnose. Non si può fare altro. Quando il tramonto distribuisce la sua luce rosata, quando le nuvole corrono creando ombre che imbrogliano il giorno, quando il margine cesellato della roccia delimita di nero più scuro il nero incorporeo della notte d'inverno, non si può fare altro che rompere in qualche modo il silenzio. La natura, quando è così invadente, non basta guardarla, bisogna comporla in un quadro e raccontarla. Da lontano l'isola è un perfetto triangolo nero, nitida, primitiva, apparentemente deserta, incappucciata di nuvole. In avvicinamento le nuvole si riducono a un singolo sbuffo di fumo in corrispondenza con le bocche del vulcano. Se ti avvicini ancora, compaiono le case, bianche, come ciotoli levigati dalla risacca, allineate in disordine alla base del triangolo, quasi un deposito del moto ondoso. La luce, che dal latte dell'alba si stria di rosa, adesso mette in mostra le pieghe della montagna, scopre crinali d'ombra, svela canaloni e rughe nel verde cupo dei dirupi, e improvvisamente l'isola appare in tutta la sua decrepitezza. Le conti gli anni addosso, a migliaia. La luna impallidisce, ma per una decina di minuti coesiste con il sole, compete con la nascita del giorno. Sarà una bella giornata e sarà una giornata lunga. È sempre lunga la prima giornata. È la rottura di un ritmo. Si fa così. È così che si inganna il tempo, cambiando passo. Io lo so e ne approfitto. Mi accoccolo nell'isola come una gatta di grondaia. Sfioro appena il cesto e subito mi alzo, saluto la casa sulle rocce e vado, cioè cammino ininterrottamente, cammino e respiro dal mattino alla sera. Gentilissima signora Alberti, mi perdoni, ma ho bisogno di sfogare la mia frustrazione e la mia angoscia. ho appena assistito ad una trasmissione che celebra e glorifica il calcio. Volevo intervenire, ma non è possibile. Mi rivolgo dunque a lei se vorrà dare voce a chi è zittito dal fragore violento dell'insensibilità del mondo contemporaneo. Ciò che eleva l'uomo al di sopra delle bestie è il pensiero, non i muscoli. Lo sport, quello vero, può dare un contributo valido a questo principio, esaltando la nobiltà e lo spirito cavalleresco e leale degli atleti anche e soprattutto oltre il risultato. Mi rendo conto che si tratta di un'utopia, ma nel calcio conta soltanto il risultato. Perseguito oltretutto con qualsiasi mezzo. Non vince neanche il più forte, ma il più furbo. Con i mirabili risultati in campo educativo che possiamo constatare in tutta la società. Purtroppo, soprattutto nelle scuole, tra i giovani, con effetti deleteri di cui sono convinto pagheremo caro il prezzo. Il calcio è diventato il riscatto dei perdenti, l'oppio dei falliti, la morfina attraverso la quale si controlla un popolo servo e privato di tutto, anche dei sogni. Mentre alcuni paesi vantano premi Nobel, in Italia siamo fieri delle varie coppe dei campioni, conquistate in modo più o meno lecito dai nostri supereroi professionisti della pedata. È l'era del trionfo dei novelli gladiatori, cui il popolo, grato per lenire il dolore di mille umiliazioni, tributa senza economia denaro, gloria e persino le loro figlie o spose. Forse uso parole a sproposito o eccessive, ma ho il cuore troppo triste per come nel nostro paese si uccida la poesia, la scienza e l'intelligenza con il fragore cieco e vuoto della stupidità. Durante il Rinascimento i signori di nobile casata usavano adornare le loro regge con opere d'arte e scritti di cui tutti oggi ereditiamo la magnificenza. Credo che i nostri figli meritino di più di una collezione di coppe vuote soprattutto di onore, valori e dignità. Forse non era il caso, ma non ce l'ho fatta a resistere. La ringrazio comunque per l'attenzione che vorrà prestarmi. Con affetto e profonda stima, Alessandro. Alessandro, io di calcio ne so pochissimo, anche se sono legata a questo sport da una affettuosa tradizione familiare. I maschi di casa mia, tutti giocatori. Mio padre, centravanti. Lo zio terzino, nella squadretta della Tiberis a Umbertide, in provincia di Perugia. Mio fratello Cico era portiere. Mio figlio portiere. E me ne sono appassionata in un'altra vita, dai 5 ai 10 anni, perché mio padre, che aveva smesso di giocare, ci portava però tutte le domeniche a vedere le partite e mia sorella, che era più grande, ci andava per innamorarsi sempre dei calciatori, storie travagliatissime. E tale era la passione di mio padre per il calcio che sulla sua tomba abbiamo fatto scrivere in rilievo una filastrocca che gli aveva dedicato a 20 anni un giornalino locale quando era un bel centravanti. Si chiamava Alvaro mio padre. Non spagnol, ma frattigiano, divo gli è più di Ramon. Ramon Novarro, che era un divo di quei tempi antichi. Il suo piede va lontano, che dà i calci col pallon. Le fanciulle che l'ancaro gridan tutte, dagli Alvaro! Ciò detto, non posso darti troppa soddisfazione, perché anch'io, da non adepta, trovo ridicolo e orribile che uno sport sia truccato. E allora, ti consiglio però, recentemente Gianluca Nicoletti a Melog ha dedicato un'intera trasmissione a questo, e lì troverai, tu la puoi sentire in podcast, era la trasmissione del 31 maggio, dove lui dice che è deplorevole che uno sport sia degradato, come il calcio sia degradato a una partita di wrestling, dove teatro. Però, forse rimarrai stupito, perché tra quelli che hanno telefonato ce n'erano pochissimi che poi condannassero veramente questa corruzione e questa finta. Quindi ti rimando a Nicoletti. Sono una ragazza di 47 anni, sposata con amore a un uomo che mi vuole bene, ma che da qualche anno, schiacciato dai vari problemi, mi offre poca gioia e molta noia sotto le lenzuola. Ho avuto due storie importanti, all'insaputa di mio marito, perché io sono una che dà il cuore prima, durante e dopo. Finché il grande incontro con un medico che per più di un anno mi ha riservato sempre l'ultima visita per potersi fermare a parlare con me. Inviti a cena, sottintesi sentimentali, scambio di confidenze, insomma un amore che non si dichiarava ma veniva gridato da ogni tono di voce. Non c'era più nulla di casuale fra di noi. La sua intenzione di corteggiarmi era confermata da piccoli doni e scambio di libri. Finché un giorno gli ho chiesto di darmi un appuntamento di 10 minuti per chiarirmi un certo argomento. Insomma, noi due. Lui si è irrigidito e in pochi istanti ha cambiato le carte in tavola. Mi ha ritirato tutta la sua confidenza, le sue visite sono diventate veloci e quando io, per la quarta volta, gli ho ricordato la promessa del chiarimento, mi ha detto di prendere un appuntamento attraverso la sua segretaria. Dimmi come potrai vendicarmi sottilmente, cuore inquieto. Beh, sì, lo so, cuore inquieto, ci si rimane male assai. Chi di noi non ha subito, o magari inflitto, questo voltafaccia agghiacciante? Beh, che vuoi, cosa credevi? Perché non era detto niente e perciò si ritira tutto. L'amore non dichiarato è un grande lusso, ma è pericoloso. Comporta il rischio massimo, che sia annullato in un istante. I giocatori non hanno scrupoli, sono impuniti e ne approfittano, distruggendo con un solo diniego tutto quel gran castello. Bambini tutti e due, ma di gusti diversi. Non facevate lo stesso gioco. Per te le conversazioni intime, le emozioni non dette, i libri scambiati erano la preparazione di una festa concreta. Per lui invece era concreto il gioco stesso, quel rapporto sfumato che non impegnava nessuno e proprio perciò aveva ai propri occhi una inarrivabile grazia. Magari è il suo erotismo, magari lo fa con altre, gli piace sfiorare la passione, alludervi, ma non oltre. Voi avete degli interessi contrari. Tu, dopo una vita che sublimi, volevi concretizzare. Lui evidentemente no. Adesso avete il muso tutti e due e avete tutti e due ragione, perché vi siete rovinati la festa a vicenda. Tu hai voluto scoprire le carte e si è visto che non erano le stesse. Lui ha reagito come un bambino tradito, negando il gioco, e con una ambiguità crudele ti ha fatto capire che lo avevi deluso, che avevi sgarrato, che avevi rotto le regole. Delusa anche tu, fulminata dallo sguardo tremendo che vuol dire «Lei è una visionaria, chissà che senso ha dato e dei gesti amichevoli». Bugie. Come una bugia era la vostra intesa. Vendette? Ce n'è una sola, purtroppo passiva. Batterlo in freddezza, senza esagerare, come se lo avessi dimenticato. Non ti resta che mascherare dignitosamente la sconfitta. Lui si è ritirato. Ha vinto. L'estate scorsa abbiamo affittato una casa in Grecia, con un amico e la sua ragazza. E doveva esserci anche la mia, che all'ultimo non è venuta. Così partiamo in tre. La prima notte che dormiamo nella stessa casa, loro due fanno l'amore nella stanza accanto alla mia, con urletti, gemiti, che facevano capire nel dettaglio cosa stessero facendo. Io mi sono molto eccitato e molto seccato. Il giorno dopo gli ho detto che erano due esibizionisti e che li pregavo di essere un po' più discreti. Loro mi hanno preso in giro. «Sei un moralista!» La notte dopo sono sì più discreti, ma come in un film a luci rosse, ancora più eccitante. Comincio a sospettare che lo facciano apposta. I rapporti diventano tesi, finché io mi becco una bella ragazza, la porto a dormire con me e la notte rendiamo la pariglia agli altri due. Ormai era un gioco reciproco, evidente. Io non stavo facendo un dispetto di vicinato, io ero pazzo di desiderio per la ragazza del mio amico. Andiamo avanti così per qualche giorno. Loro una sera lasciano la porta aperta. Ci incontriamo tutti e quattro, ci mettiamo a bere e finiamo a scambiarci le donne. Per il mio amico era un gioco, ma per me era la realizzazione di un sogno erotico molto forte. Fare l'amore finalmente con lei. Il giorno dopo mi sveglio. Loro due sono partiti, spariti. Sto qualche giorno con la mia compagna, ma è l'altra che voglio rivedere. In tutto questo la mia fidanzata, dimenticata. Non dico un rimorso, ma neanche me la ricordo. Appena in città cerco lei. Mi dice che il suo ragazzo è geloso. Le chiedo di incontrarla. Ma lei mi parla solo al telefono e al telefono si svolge il nostro amore, anche il sesso. Stiamo andando avanti così dallo scorso settembre. Ho incontrato lui per lavoro. È stato cordiale, ma mi sembrava beffardo. Questa ragazza mi sta prendendo in giro. Io non riesco più a fare niente. Sto perdendo la testa. Otello. Ma la mia impressione così al volo è che quando lei ti telefona c'è anche il suo ragazzo e poi o durante fanno l'amore alla faccia tua. Tu credi di avere un rapporto sessuale con lei, in verità ce l'hanno loro attraverso di te, che sei il gabbato in questo caso. Si servono di te tutti e due per il loro gioco erotico, in cui tu vai bene solo come fantasma. Il tuo amico sembra distratto, ma non è fesso. E si è certo accorto la famosa notte che il tuo interesse per la sua ragazza era forte. Ti hanno cucinato ben bene mentre eravate in Grecia, con quegli amplessi esibiti che hanno fatto di lei l'oggetto del tuo desiderio ossessivo. Poi però, appena sei diventato concreto, cioè vi siete incontrati veramente a letto, lui ha avuto paura ed è fuggito e l'ha portata via. Ma è possibile, scusa, che in tanti mesi, nella stessa città, tu non sei riuscito a vederla? Quei due sono d'accordo. E non mi meraviglia che il tuo amico, quando lo incontri, ti sembri un po' beffardo, perché il cornuto sei tu. Lo è di certo beffardo, e lo è anche un po' troppo, un po' anche con intenzione, per far vedere a se stesso e a te che è lui il vincitore. Perché lui sa che quel gioco è sul filo del rasoio. Accettandoti come fantasma, sa che resti comunque un uomo e che se magari ti incontrassi da solo con lei, forse ogni finzione potrebbe cadere e lui rischierebbe di perderla. È una storia artificiosa eppure vera. Loro due sono chiaramente una coppia che va bene a letto solo se si sente spiata e se suscita il desiderio di qualcun altro, che però non vogliono come parte attiva. È la vittima, colui che si consumerà di desiderio insoddisfatto. Metà dell'immaginario erotico occidentale funziona così. Ci deve essere sempre qualcuno che soffre, e forse tre quarti. L'idea che qualcuno sia turbato dal nostro atto sessuale lo rende 100 volte più prezioso. E se a questo si aggiunge l'elemento della tortura, se si tiene il terzo in eccitazione costante, riempiendo la sua fantasia ma senza concedersi, beh, il massimo. E tu? Ma forse un po' questo tormento ti piace, perché non è possibile che quello che ti sto dicendo tu non ci abbia pensato. Altrimenti cercheresti lei, la cercheresti attivamente, faresti quelle cose brutte e belle, appostarti in qualche maniera e le faresti confessare che non è una macchina, o cercheresti di farle confessare che non è una macchina, che non è un fumetto porno, ma è una ragazza che ti pensa, forse. Come potrebbe essere altrimenti? Sei il pretesto, ma sei anche la condizione della loro intesa sessuale. Se vuoi lei, fatti avanti. Se invece vuoi il gioco morboso all'infinito, resta fermo. Ma forse a lei piace solo così. E tu per lei, magari, sei troppo semplice. Di questa lettera leggerò solo le prime 3 righe. Facendo il bagno a mio figlio, ho scoperto che aveva dei segni sul collo. Gliel'ho fatto notare e lui si è inventato una storiella ridicola. Dice che è andato a sbattere. So bene riconoscere un succhiotto da un livido. Io sospetto una certa ragazza. La lettera continua, ma per carità verso di te e verso chi ci ascolta tralascio il resto, dicendo solo l'essenziale. Mamma, tuo figlio ha 20 anni, ma non ti vergogni? Ma che razza di rapporto hai con lui? Ma come, a 20 anni non si fa il bagno da solo? E tu, invece di sospettare una certa ragazza, sarà bene che sospetti te stessa, d'essere una madre morbosa, irresponsabile, non ti dico di andare dallo psicologo, qui ci vuole l'esorcista, e ci vuole soprattutto che vi separate per 6-7 mesi, in modo che questo ragazzo possa accorgersi di essere nato davvero, di esistere. Ciao, chi ti scrive è una ragazza 20enne, che da quando ha lasciato il suo ragazzo, con cui non andava d'accordo, non è più la stessa. Ha vergogna di fare conoscenza con i suoi coetanei, paura che tra l'amicizia possa nascere qualcosa, e questo si serva di lei come ha fatto il suo primo ragazzo. Non crede più a nessuno, sta chiusa in casa e non si fida nemmeno delle amiche. A cosa deve pensare che la faccia uscire con gioia come prima? E come farsi passare il dubbio che non incontrerà mai l'anima gemella? Simona. Ma primo, questa ragazza dovrebbe cominciare a parlare di sé in prima persona e non in terza. Perché questo osservarsi e analizzarsi fa di lei una persona spiritualmente malata. E poi secondo, guarda Simona, che l'anima gemella è un'invenzione. Le affinità si creano, si coltivano e poi con la tendenza alla depressione che hai ti conviene trovare l'anima apposta. Ti stai rosolando pigramente nel forno di una casa protetta. Smetti di pensare, agisci, senti. Sei in prigione, ma ti ci sei messa da sola. E così basta volere, basta dire esco. E si esce subito. Шарманка шарлатанка, как сладко ты поешь. Шарманка шарлатанка. Ma i giorni si sono rinnovati nella ricerca. I più vicini agli angeli, perché più umili, i corpi sembrano contenti di vivere e di bere. Ameranno scardinare porte, chiedere un po' di celeste sui soffitti. Senza fare baccano in lettura, suggerire a chi più gli piace i versi di uno che dice «E quanta voglia ho di lasciarmi andare!» Di fare un po' di chiacchiere, di dire la verità, di mandare lo spleen alla nebbia, al diavolo, alla forca, di prendere qualcuno per mano e, sii gentile, dirgli visto che andiamo per la stessa strada. Questi versi sono di Marco Amendolara, poeta salernitano. La prima volta che l'ho visto, Marco Amendolara aveva 16 anni, io ero già una donna grande, avevo già scritto dei libri, e eravamo proprio alla presentazione di un mio libro, vicino Salerno, sul mare. E fra questi turisti malvestiti spunta fuori questo ragazzino prodigio, prodigio di vivacità, di cultura, bellissimo. Era un piccolo principe orientale, era identico ad Omar Sharif, però adolescente, questi occhioni ardenti. Che dandy! Lascia che sia fiorito, Signore, il suo sentiero, quando a te la sua anima e al mondo la sua pelle dovrà riconsegnare, quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte, ai suicidi dirà, baciandoli alla fronte, venite in paradiso, là dove vado anch'io, perché non c'è l'inferno nel mondo del buon Dio. Fate che giunga a voi, con le sue ossa stanche, seguito da migliaia di quelle facce bianche, fate che a voi ritorni fra i morti per oltraggio, che al cielo e dalla terra mostrarono il coraggio. Signori ben pensanti, spero non vi dispiaccia se in cielo in mezzo ai santi Dio fra le sue braccia soffocherà il singhiozzo di quelle labbra smorte che all'odio e all'ignoranza preferirono la morte. Dio di misericordia, il tuo bel paradiso l'hai fatto soprattutto per chi non ha sorriso, per quelli che han vissuto con la coscienza pura. L'inferno esiste solo per chi ne ha paura. Meglio di lui nessuno mai ti potrà indicare gli errori di noi tutti che puoi e vuoi salvare. Ascolta la sua voce che ormai canta nel vento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento. Abbiamo mandato la canzone di De André tutta intera, perché è dedicata a Marco Amendolara, che il 16 luglio del 2008, 3 mesi prima di compiere 40 anni, si è tolto la vita, dopo avercene data tanta. Proprio tolto la vita, ho detto, come un vestito, come quando uno butta via, si sfila un vestito che non si poteva più permettere. E uso questa espressione anche perché l'ipocrisia mi vieta di dire subito la parola vera, quell'altra parola, si è ucciso. Marco si è ucciso nel modo più crudele per sé e per gli altri, senza lasciare una parola. Lui che viveva scrivendo, lui che era scrittura, non una parola a nessuno. E così ha lasciato questo enigma sospeso su di noi questa accusa senza assoluzione. C'è un dettaglio importante. Marco non era un fabbricante di sensi di colpa. Era una creatura lieta e poi i sensi di colpa se li prendeva tutti su di sé. Marco era un uomo giusto e ci chiama a giudizio. Tutti noi che non gli siamo serviti a niente. Quando uno se ne va come lui senza scrivere niente, ti dice vi ho scritto tutta la vita e non avete capito e che vi scrivo a fare adesso per assolvervi. E no, che ognuno si prende il suo peso. Il suicida che scrive le due ultime paroline che spiegano tutto, che fanno piangere tranquilli quelli che restano, che siamo tutti azionisti in quote diverse della sua fine, è ancora un cane che scodinzola pieno di fiducia, uno che elemosina una carezza, che sciupa il gesto con le chiacchiere, che non rompe veramente un patto, che lascia questo legame. Marco è come un eroe di Plutarco. Il vero suicida tace. Lui dice con questo gesto: vi ho scritto tutta la vita e non avete capito che volevo di più. E che volete capire adesso? Non siate ingordi. Che bisogno c'è di messaggi? Sono morto. Più di morire che vi devo spiegare. E così ci è condannati a ricordare noi con lui. Le insolvenze si pagano. In un'intervista poco prima di morire aveva detto: voglio essere ricordato. Nessuno pensava che alludesse alla morte. Ecco, adesso così siamo legati a quella telefonata che non abbiamo fatto, a quella bellissima traduzione di Catullo sua che ci mandò. E non era bellissima perché lui adesso è morto. Era bellissima perché era bellissima, sofisticata, semplice, inventata. E poi perché in filigrana chi avesse intelletto d'amore ci avrebbe letto tutto il suo strazio. Era una mappa delicata, dettagliata dei suoi terrori e non lo abbiamo allora festeggiato abbastanza. Non so, si poteva prendere un treno, 2 ore e mezzo e saremmo stati lì, questo treno che adesso sì, se anche Salerno fosse lontana come la Siberia ci salteremmo subito sopra. Ma non ne passano più di treni. Quando arrivò il suo Catullo eravamo distratti. Oh, ma poi non mi vorrei nascondere dietro il noi. Marco ci ha obbligato a sapere ognuno per sé. E lo so che mancando lui sono mancata a me stessa. Che sono solo un coccodrillo. Credo che se mi sentisse mi direbbe proprio questo. Gli dispiacerebbe questo tono piagnone, solenne. Mi prenderebbe in giro perché era spiritosissimo. Ma Marco, sfuggendo a noi, si è consegnato a noi. E dei morti noi che restiamo. Facciamo quello che ci pare. Marco Amendolara è l'unico suicida che io abbia mai perdonato. Gli altri li ho odiati tutti, come dei traditori. Ma lui era un'altra cosa. Marco era saggista, scrittore, giornalista, professore di liceo. Scrive Marco: riappropriarsi della gioventù dopo un lungo freddo è un esorcismo necessario. E ancora, tutto questo freddo da quando sei nato, forse è la fine che viene a liberarti. E ancora altri versi di Marco: il non detto è la prigione della lingua e le superfici rose, le apparenze che non ingannano, si fanno come niente specchi del destino. E ancora, lentamente scrivo sulla sabbia, lievemente, con dita poco appuntite, dolcemente, par delicatesse, forse, scrivo parole di cenere per farmi intendere con più certezza di morire. E ancora, addio sogni di aristocrazia, addio sogni di suicidio, stanotte ti ho baciato le labbra profumate di fiori e di foglie. E ancora, non ho intenzione di andare avanti, fermo qui il mio bastone. È come se ce l'avesse gridato nelle orecchie come una tromba. E ancora, io so, perché e lui lo sa anche, dicendo queste cose di lui, ancora mento. Io saluto i genitori di Marco Amendolara, Rosellina e Arturo. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Valerio Rocchetti, a cura di Gloria Guerrera.